L'albe sans serre, per le nostre rene, scioglie le catene e lasciami andare. Lasciami andare, lasciami andare, lasciami andare. lasciami andare.